This morning we went into the three characteristics of existence. Questa mattina abbiamo parlato delle tre caratteristiche dell'esistenza. And the reason for that is that these are the three avenues of investigation. E il motivo di ciò è che queste sono le tre strade da seguire per l'investigazione. This is what actually brings the liberation. Ed è proprio questo che porta alla liberazione. So, I suppose the question is, liberation from what? No, suppongo che la domanda sia, ma liberarsi da che cosa? And this talk is also especially aimed at people who don't know much about Buddhism. Quindi questo discorso è mirato un po' alle persone che non sanno molto di buddismo. But it's also good for me to weave some sort of discussion around basic principles. Ma è utile anche per me per, come dire, addentrarmi un po' in alcune discussioni in merito al basic concepts, yeah, basic ai concetti di base del buddismo. And I think it's always instructive to begin with the life of the Buddha himself. È istruttivo, credo, cominciare con la vita stessa del Buddha. Because he's not only the teacher, he's also an exemplar. Quindi non è solo l'insegnante o il maestro, è anche un esempio. And more, he represents an archetype. E inoltre rappresenta un archetipo. The basic structure, or we can say architecture, of his life is common to anybody who seeks spiritual liberation. Quindi la sua struttura o l'architettura, diciamo, della sua vita è tipica di chiunque stia cercando la liberazione. And you will find it in all mystical traditions. E questo la troverete in tutte le tradizioni mistiche. Each tradition, of course, will have its own approach. The Buddha's approach was in tune with his time. Ogni tradizione avrà il suo approccio. Quello del Buddha era consono al suo tempo. His time was one of turmoil. Quindi i suoi tempi erano tempi di, come dire, di grande fermento. Compared to our times, it was what you might call a walk in the park. In confronto ai nostri tempi era come una passeggiata nel parco, era niente al confronto. But even so, it was disturbing. Ma in ogni caso anche così era disturbante. Politically, there was a movement away from the tribal structure of government. Quindi politicamente c'era un movimento che away from, you mean, undermining the tribal structure. Quindi un movimento che stava minando alla base la struttura tribale. Which was basically a group of elders with a head man, men of course, quindi, who governed the society. Quindi era un gruppo di anziani con un capo che governava la società. Towards monarchy. E quindi c'era questo spostamento verso invece la monarchia. And in reality the Buddha's father was a local leader for a particular small ethnic group. Il padre del Buddha era un leader politico per un piccolo gruppo etnico. Who came directly under the power of the king of Kosala. Che era direttamente sotto il potere del re di Kosala. Who in fact became a very close friend of the Buddha. Che poi divenne un caro amico del Buddha. Passanadi. Mm. Economically there was a shift from just ordinary barter to the beginnings of what we would call, I suppose, mercantilism or early capitalist trading. Quindi da un punto di vista economico si stava passando da un semplice baratto a quello che chiameremo un mercantilismo o l'inizio di un commercio capitalista. And that meant a new class of rich people. E questo significava una nuova classe di persone ricche. Who were the merchants? Ed erano i commercianti. And one of them, Anathapindika, became a very close supporter of the Buddha. E Anathapindika, uno di essi, divenne un sostenitore del Buddha. And he bought him a very rich piece of real estate. E gli comprò un pezzo molto costoso di un terreno, diciamo, molto costoso. From a prince, and he had to cover the ground with gold coins. Lo comprò da un principe e lo pagò coprendo, diciamo, tutto il terreno con monete d'oro, per dire il prezzo di questo terreno. So when the Buddha became a famous teacher, he had the support of two kings and one more or more very rich merchants. Quindi quando il Buddha divenne un famoso maestro, ebbe il sostegno di due re e almeno uno, se non di più, di questi importanti commercianti. But of course when he began his search for truth, he was the son of one of these elders. Ma quando lui cominciò questa ricerca della verità, lui era il figlio di uno di questi anziani. And he joined a movement, a spiritual movement, which was something like the hippies of the 1970s. Ha un gruppo spirituale che era molto simile al movimento hippie degli anni 70. And just as that late 60s, 1970s movement has brought about most of the famous Vipassana teachers that you know today, such as Joseph Goldstein. E così come quel movimento degli ultimi anni 60, 70 ha portato molti insegnanti importanti di meditazione come Joseph Goldstein. Although I don't think he was a hippie. Anche se non mi sembra che lui fosse un hippie. So in those days there grew out of this movement very famous religious leaders. Così allo stesso modo ai tempi del Buddha venne fuori da questo movimento degli importanti leader spirituali, famosi leader spirituali. The Buddha, the Jain leader, and a new understanding within Brahmanism, which we now call Hinduism. Quindi il Buddha e poi il capo, Jain. Diciamo, del Jainismo, diciamo così. E poi anche all'interno del movimento dei Brahmani ci furono degli importanti maestri e poi questo diede luogo all'Induismo. The beginning of the scriptures known as the Upanishads began at the same time as this movement. E anche le scritture conosciute come Upanishad ebbero luogo contemporaneamente a questo movimento. So we have to see the Buddha as very much a part of something that was happening within his society. Quindi dobbiamo considerare il Buddha come parte integrante di qualcosa che stava succedendo nella sua società. In fact, and this shows us the interconnectedness of, for want of a better word, consciousness. E questo dimostra questa interconnessione della coscienza. The fact that at the same time there was Lao Tzu in China, Moses in the Middle East, and somehow a great lifting of human consciousness. Questo per dire che contemporaneamente c'era Lao Tse in Cina, Mosè nel Medio Oriente e in generale questa sorta di rising of consciousness. Questa sorta di sollevamento, di elevazione della coscienza nel mondo. And one of the essential messages of all of these teachers was: do unto others as you would have them do unto you. E uno dei messaggi fondamentali di tutti questi maestri era: fate agli altri quello che voi vorreste che gli altri facessero a voi. Mm. So here we have the Buddha trying to heal his spiritual disease. Allora abbiamo il Buddha che sta cercando di guarire la sua malattia spirituale. And his disease is represented mythologically as seeing the four messengers from the gods. E quindi mitologicamente questa malattia è vista come come vedere i quattro messaggeri dagli dei. While out on his hunting and enjoying himself, he came subsequently to a very sick person, a very old person, a corpse, and an ascetic sitting under a tree. E quindi mentre stava andando a caccia e incontrò quattro persone diverse, quattro situazioni. Quindi prima una persona malata, una persona vecchia, un cadavere e infine un asceta seduto sotto un albero. Mm. So this was expressing his what we would call today his existential crisis. Quindi questa era un'espressione di quello che noi adesso chiameremmo la sua crisi esistenziale. Mm. And the essential crisis was the meaning of death. E quindi questa crisi esistenziale era il significato della morte, the meaning of death. The meaning of death. In those times there was an accepted belief of continual rebirth. A quei tempi c'era questa credenza accettata da tutti della continua rinascita. Mm. And although life, generally speaking, begins on a happy mode with childhood. E anche se la vita, parlando in modo generale, inizia con una modalità felice, con l'infanzia, and develops into a more excited young person stage, e poi passa ad una fase così più eccitata della gioventù, eventually the future is not so bright. Poi, prima o poi, il futuro non diventa così luminoso. And he was of an age when the future began to lose its luster. E lui era ad un'età in cui il futuro cominciava a perdere il suo lustro. Mm, yeah. He left home at the age of 29. Lui andò via di casa all'età di 29 anni. Definitely the end of youth. Decisamente era fine della gioventù. Yeah. And on the doorstep of middle age. Ed è alla soglia della mezza età. So his first effort is to find good teachers. Quindi il suo primo sforzo è quello di cercare dei buoni insegnanti. And his first two teachers showed him how to achieve these absorptions. I suoi primi due insegnanti gli insegnarono a raggiungere questi stati di assorbimento. Mm. You will find in all mystical traditions some literature about these ecstatic inward states. E in quasi tutte le tradizioni mistiche troverete questa ricerca di stati di estatici. Mm. And in the Christian tradition, perhaps most clearly, is the writings of Saint Therese of Avila. E nella tradizione cristiana sicuramente sono gli scritti di Santa Teresa d'Avila. Mm-hmm. Santa Teresa d'Avila. And both times, having achieved what his teachers wanted him to, the answer to his core problem had not been, was not there. E in entrambi i casi, pur avendo raggiunto tutto quello che gli avevano insegnato questi maestri, la risposta a questo problema di fondo non l'aveva trovata, non era lì. And so he turned to the ascetic practices, which he took, it would seem, from the Jain teacher. E poi si rivolse a queste pratiche ascetiche che prese da pare da questi maestri jainici. I don't think he was a direct student of the Jain teacher, but the Jain teacher was the best exemplar of the path of self-mortification. Quindi forse non era proprio direttamente un discepolo di un maestro jainico, però sicuramente questi insegnamenti erano un buon esempio della pratica della mortificazione, dell'automortificazione. jainista. And the understanding in those times was that the problem lay in the body. E la, come si diceva, a quei tempi la filosofia, diciamo, ciò che veniva compreso era che il problema era nel corpo. Mm. If the soul could liberate itself from the body, it would discover freedom. Se l'anima poteva liberarsi dal corpo, allora avrebbe scoperto la libertà. Mm. Therefore, one made long fasts. Allora uno si sottoponeva a dei lunghi digiuni. Because the fundamental problem was just like the Buddha, that there was a thirst, a desire for seeking happiness through the body. Perché il problema fondamentale era questa ricerca, così come nel Buddha, di come dire, alleviare la sofferenza o come dire, togliere la sete attraverso il corpo, through the body. Through the body. Mm? And no? Yeah, self-mortification. Sì, attraverso l'automortificazione del corpo. Mm. So he also tried this and over a period of time, it is thought maybe 4 years, he became very thin. Quindi ha provato anche questo e pare che dopo un certo tempo, tipo 4 anni, divenne molto molto magro. And he had not attained his aim to seek an end to this suffering. E non aveva raggiunto la sua meta, che era quello di cercare la fine di questa sofferenza. Mm. Now, a crucial thing happens because he leaves his companions. Allora, qui succede una cosa cruciale perché lui abbandona i suoi compagni. And one can only presume that he was in a state of despair. Uno può supporre che fosse in uno stato di disperazione. Because he had tried every system, none of them had answered his problem. Perché aveva trovato ogni tipo di sistema e nessuno aveva risposto al suo problema. So, what was he to do? Cosa doveva fare? And the story is that a woman is passing by with some milk offerings for a local god. Allora la storia racconta che passava di lì una donna che aveva un'offerta di latte per un dio, una divinità locale. Mm. And as happens with the story of saints, she saw this beautiful gleaming person by the roadside and thought that was a god. E come succede spesso nelle storie dei santi, ha visto questa immagine, questa persona al lato della strada che era, come dire, luminosa, e allora l'ha cambiato per un dio, ha riconosciuto che era una divinità. But I think if we're being realistic, what she saw was a very depressed and emaciated aesthetic. Ma se vogliamo essere realistici, pensiamo che ciò che lei ha effettivamente visto era un asceta emanciato e disperato, depresso. Depresso. And so out of pity and compassion she offered him the rice. E quindi proprio per compassione e pietà ha offerto a lui questo budino di riso, latte riso. It seems that when he took this food, he felt very much invigorated. E pare che quando il Buddha assunse questo cibo si sentì molto rinvigorito. Hmm. Although we have to say that one of the factors of liberation is not rice pudding. Dobbiamo dire che uno dei fattori per la liberazione non è questo budino di riso. And he goes to sit, he has a memory of childhood. E quindi gli viene un ricordo della sua infanzia. And it is watching his father doing a ceremony to begin the ploughing season. Ed è il ricordo di suo padre che fa una cerimonia all'inizio della stagione dell'aratura dei campi. The qualities of that observing awoke in him the possibility of another way. Quindi le qualità di quel tipo di osservazione hanno risvegliato in lui la possibilità di un'altra via. And to understand that we have to remind ourselves how children behave. E per ricordarci di questo dobbiamo pensare a come si comportano i bambini. Mm. before the age of seven. Prima dell'età di sette anni. When a child sees something that it has never seen before, like an insect. Un bambino vede una cosa che non ha mai visto prima, come un insetto. Have you noticed how the eyes lock on to that little object? Avete notato come i suoi occhi, come se si, come si può dire, si fissassero su quell'oggetto? Mm. And how the jaw drops. E come gli cade la mandibola. And they look stupid. Sembrano stupidi. Huh? And the parent says, "Wake up!" and hits them on the back of the head. E il genitore dice, svegliati, e gli dà uno scappellotto. One meditator told me that when she was a child and she did this, her father would tell her that if she didn't close her mouth, a frog would jump in. Una meditante mi ha detto che quando faceva così da bambina, il padre le diceva che se non avesse chiuso la bocca sarebbe entrata una rana. In this way we destroy a child's intuitive intelligence. In questo modo noi distruggiamo l'intelligenza intuitiva di un bambino. And of course it happened to us also through our education system. Ed è capitato a noi attraverso il nostro sistema dell'istruzione. Which reinforces rationalism and consecutive thinking. Che rinforza la razionalità e questo sistema conseguenziale. Not that that's bad. The Buddha used it in order to teach the Dhamma. Non è che questo sia sbagliato. Il Buddha l'ha utilizzato per insegnare il Dhamma. No. And the difference between that absorption in watching his father and the absorptions that he learned from his teacher was this ingredient of interest. Quindi la differenza tra quello stato di assorbimento che aveva da bambino guardando il padre e l'assorbimento che gli avevano insegnato i suoi maestri era questo ingrediente dell'interesse. Mm. Curiosity. La curiosità. Mm. So we can see now that all the factors of enlightenment were there within that little child watching his father. Adesso possiamo vedere che tutti i fattori dell'illuminazione erano presenti in questo bambino che osservava suo padre. Mm. There was the awareness. C'era la consapevolezza. There was the steadiness of attention, the concentration. C'era la stabilità dell'attenzione, quindi la concentrazione. There was the energy needed, the effort needed to keep the attention steady. C'era l'energia, lo sforzo necessario per tenere ferma e costante l'attenzione. There was the relaxation in the body, exemplified by the jaw. C'era il rilassamento nel corpo, manifestato attraverso la mandibola che cade. And there was this curiosity. E c'era questa curiosità. Mm. There was only one factor missing, or maybe that child would have become fully enlightened right there and then. Mancava un solo fattore, altrimenti quel bambino si sarebbe illuminato lì in quel momento. Although it's understood that you have to be above the age of seven to achieve liberation. Anche se pare che uno debba avere più di sette anni per raggiungere la liberazione. This is why you can ordain a child into the Buddhist order at the age of seven and a half, eight. Ed è per questo che è solo all'età di 7, 7 anni e mezzo, 8 che un bambino può essere ordinato nell'ordine monastico. Diciamo. Mm. In fact, he did that to his own son, Rahula. Eh? Infatti, il Buddha poi l'ha fatto a suo figlio, Rahula. Because he was born just as he left. Perché questo bambino è nato proprio quando il Buddha se n'è andato. Mm. And he came back home after six or so years. E lui è tornato a casa dopo sei anni. And his mother said to the child, "Go and ask your father for your inheritance." E la madre disse al bambino, vai da tuo padre a chiedergli l'eredità. So to the horror of his parents, of his mother and his grandparents, he made him join the order. Quello dispiacere diciamo di sua moglie e dei suoi suoceri, lui l'ha fatto unire all'ordine. And in fact they were upset. E infatti erano molto disturbati da questo. His father complained that both he had left and he had lost an heir, and now he'd taken the second heir. Il padre si è lamentato che lui se n'era andato, quindi aveva già perso un erede, e adesso ne aveva perso un altro. So therefore, if you join the Buddhist order, you now have to have the permission of your parents or your dependents. Ed è per questo che adesso, se uno vuole unirsi all'ordine monastico, deve avere il consenso dei propri genitori. Sì. Of your parents or your parents. Parents, no. Out, your wife, your, you know, if you want to leave the family. Oppure di un coniuge, del coniuge, insomma, prima di lasciare la famiglia. When I was ordained in a very exotic place, Birmingham. Quando io sono stato ordinato in un posto molto esotico, Birmingham. My family came. È venuta la mia famiglia. My mother and father. Mia madre e padre. They were all at that time very strong Catholics. A quel tempo loro erano dei convinti cattolici. Roman Catholic. And afterwards, I said to my father, I was very happy that he had supported my ordination. Dopo ho ringraziato mio padre per aver sostenuto la mia ordinazione. He said, "Well, son, I wouldn't go that far." Ho detto, beh, io non so dire in italiano, non esagerare. He had tolerated it. L'aveva solo tollerata. So, what was the missing ingredient that might have, you know, liberated that little child? Quindi qual era l'ingrediente mancante che avrebbe permesso la liberazione di quel bambino? No. This is what the Buddha discovered under that tree, the Bodhi tree. Ed è questo ciò che il Buddha ha scoperto sotto quell'albero, l'albero della Bodhi. He had all the virtues needed to become fully liberated. Aveva tutte le virtù necessarie per diventare pienamente liberato. And to become fully self-liberated. E per diventare pienamente auto-illuminato. It is because of this memory and because of the failure of his teachers to liberate him that we say he is self-enlightened. Ed è proprio per questo ricordo e per il fallimento dei suoi maestri nell'insegnargli che diciamo che lui è pienamente auto-illuminato. So when he sat under that tree, he began to look at what was happening in his body, mind and heart. Quindi quando si è seduto sotto questo albero, ha cominciato a osservare quello che stava succedendo nel suo corpo, nel suo cuore, nella sua mente. Unwittingly, he had begun Vipassana. Senza saperlo, aveva cominciato la Vipassana. And he was so committed that he said, "I will not move from this seat either before I am liberated or I die." E fu così determinato che disse a se stesso, "Io non mi alzerò se non sono o liberato oppure morto." Lucky for us and lucky for him, it took 6 hours. Per fortuna nostra e sua, ci vollero 6 ore. Yeah. And it's a little exercise that we might try for ourselves. È un esercizio che potremmo provare anche su di noi. Make a firm determination not to move until you are fully liberated. Prendete questo impegno, diciamo, questa determinazione di non alzarsi fino a quando non si è pienamente illuminati. Or die. O morire. See how long it lasts. Vediamo quanto tempo dura. And at the end he had 3 great understandings. E alla fine di questo ebbe 3 grandi comprensioni. The first one was that his heart was completely purified. La prima era che il suo cuore era completamente purificato. Now, this purification of the heart is on a superficial, we can say, superficial psychological level, but a very deep level of delusion. At a superficial level of psychology. Mm-hmm. Quindi questa liberazione del cuore è a un livello superficiale di psicologia. And a very deep level of delusion. Ma a un livello molto profondo di illusione. Now we talked a little bit about the psychological problems with wanting. All that area of wanting and not wanting. Abbiamo già parlato di tutti questi problemi psicologici nell'ambito del volere, del non volere, delle cose. But this delusion now is something which goes very deep. Ma questa illusione è una cosa che va molto in profondità. And it expresses itself in us believing that we are human beings. E si esprime nel fatto che noi crediamo di essere degli esseri umani. Now, I'm not saying that conventionally speaking, we are not human beings. Non sto dicendo che parlando in maniera convenzionale noi non siamo degli esseri umani. But when we look into the body, the mind and the heart and see it as something transient, then we cannot be that. Ma quando guardiamo dentro il corpo, il cuore e la mente e li vediamo come qualcosa di transitori, allora noi non possiamo essere essi. To be in that complete sense, one cannot change. Quindi per essere così in un senso completo, allora uno non potrebbe cambiare, non ci sarebbe la possibilità del cambiamento. Just to take a very simple example. Quindi per prendere, fare un esempio molto semplice. Most of us will understand that we are not the body because it dies. Molti di noi comprenderanno che noi non siamo il corpo perché il corpo muore. In fact, they tell us that every 7 years every atom has changed. Infatti ci dicono che ogni 7 anni ogni atomo del nostro corpo è cambiato. So next time you look in the mirror, just say to your face, you weren't here 7 years ago. La prossima volta che vi guardate allo specchio, dite alla vostra faccia, tu non c'eri 7 anni fa. And yet, if the doctor tells us we have 6 weeks to live, we go into panic. E ciò nonostante se un medico ci dice tu hai 6 settimane di vita, entriamo in uno stato di panico. This panic, this fear, this horror is the expression of our identity with the body. E questo panico, questa paura, questo orrore è l'espressione della nostra identificazione con il corpo. So although we might talk over the dinner table that we are not afraid of death and actually speaking, when it approaches us, we are definitely afraid. E quindi anche se, non so, così conversando a tavola, noi possiamo dire no, io non ho paura della morte, però quando poi si avvicina lo siamo impauriti. This delusion, where does it lie? Quindi questa illusione dove sta? Dov'è? This morning we talked about this intuitive intelligence. Stamattina abbiamo parlato di questa intelligenza intuitiva. Actually, I prefer the word knowing. Io preferisco la parola conoscere. Because the word knowing suggests that it is something which is a process, but is not something that is substantial, you can hold on to. Perché questa parola conoscere implica che è un processo, ma non è qualcosa di sostanziale a cui ci si può aggrappare. And what we begin to perceive is that this knowing is not looking in a correct way. E la cosa che riusciamo a percepire è che questo conoscere non sta guardando in un modo corretto. And that is why the Buddha asks us to investigate these 3 characteristics. È per questo che il Buddha ci chiede di investigare queste 3 caratteristiche. By observing the impermanence of things, the role of desire, and seeing everything as objective, we are undermining a particular misunderstanding. Quindi comprendendo l'impermanenza delle cose e anche il ruolo del desiderio, noi stiamo minando alla base questa grande malinteso di fondo. Why is it so difficult? Ma perché è così difficile? See, we know everything arises and passes away. Noi sappiamo che tutto sorge e passa. It doesn't take that much meditation to realize that desire is a problem. E non ci vuole poi così tanta meditazione per riconoscere che il desiderio è un problema. Desire seeking happiness in sensual, in worldly pleasures. Ad esempio il desiderio di cercare la felicità nei piaceri sensoriali. It produces attachment, it produces addiction. Produce attaccamento, produce dipendenza. It doesn't take that much understanding to realize that this body and you observe your emotions, and perhaps you see a thought and you recognize that maybe all these are objects of consciousness. E non ci vuole poi molto a riconoscere che c'è un corpo e poi ci sono delle emozioni o dei pensieri e uno li riconosce come degli oggetti. And therefore not me, not mine. E quindi come se non sono io, non sono miei. And yet we still persist in making suffering for ourselves. E ciò nonostante noi continuiamo a creare questa sofferenza per noi stessi. So what we realize is that an intellectual understanding is not enough. Quello che comprendiamo quindi è che questa conoscenza intellettuale non è sufficiente. And even insights at a more superficial level in Vipassana may not have the great change that we would wish. E anche questi insights a un livello superficiale della Vipassana non hanno questo potere trasformativo come noi desideriamo. Even someone who has actually glimpsed Nibbana, and we call that person a stream entrant. Quindi anche una persona che ha avuto un'esperienza di Nibbana, e noi queste persone chiamiamo persone che entrano nella corrente. Which means that his path to liberation is now determined. Quindi questo significa che la sua via verso la liberazione è già determinata, così, in questo modo. It's understood he may take even another 7 lifetimes. E quindi si dice che potrebbe richiedere comunque ancora 7 vite. Or we can bring it more realistically to say that actually he has not undermined his hatred and greed. Oppure possiamo dire in maniera più realistica che lui non si è ancora liberato, diciamo, non ha ancora intaccato la sua avversione, avidità. So, even these insights are not enough. Quindi anche questi insights non sono sufficienti. So there has to be a translation of the insight through the whole system. Quindi ci deve essere una specie di traduzione di questi insights attraverso il sistema, l'intero sistema. And that's what the Buddha is asking us to do when he laid out the Eightfold Path. Ed è quello che il Buddha ci sta chiedendo di fare quando ha ideato questo ottuplice sentiero. That is why all the exercises around developing metta, compassion, joy are part of that systemic process. È per questo che tutte quelle pratiche per lo sviluppo di metta, di gioia, di compassione fanno parte di questo this systemic process. Fanno parte di questo processo sistemico. And this is the change of attitude. E questo è il cambiamento di atteggiamento, di attitudine. This attitude now has to express itself into the world. Questa attitudine adesso deve esprimersi nel mondo. And that's when we have right action. Ed è lì che abbiamo la retta azione. When we get to right action, we're in the area of ethics. Quando mettiamo in atto questa retta azione, siamo nell'ambito dell'etica. And we begin to realize that anything we do that is unwholesome is reflecting our delusion. E quindi ci rendiamo conto che qualunque cosa facciamo che non è salutare sta riflettendo la nostra illusione. And everything we do which is wholesome is reflecting our wisdom. E tutto ciò che facciamo che è salutare sta riflettendo la nostra saggezza. And that is why in the standing meditation last night I was stressing the point of intention. Ed è per questo che nella meditazione in piedi che abbiamo fatto ieri sera io sottolineavo l'importanza della intenzione. This takes you directly into your daily life. Perché questo vi porta direttamente nella vostra vita quotidiana. Only if we are calm and awake will we notice these habitual intentions. Solo se siamo calmi e pienamente svegli noteremo queste intenzioni abituali. One lack of mindfulness and we do something which is unwholesome. Quindi basta un'assenza di consapevolezza e subito facciamo qualcosa di non salutare. Possibly. Forse. We say a harsh word and so on and so forth. diciamo una parola offensiva o qualcosa del genere. Mm. Now, by making the effort to note these intentions and to make sure we do not indulge intentions that are unwholesome for us. Quindi, by making the effort to note, facendo questa, mettendo lo sforzo di notare questi, queste intenzioni, e di modo che non diano luogo a delle azioni non salutari. And to reinforce those intentions that we see are wholesome. E rinforzando invece le intenzioni che noi vediamo che sono salutari. This feeds back into the system. Questo è come se nutrisse o tornasse indietro, diciamo, nel sistema. Mm. It affects our attitude and eventually our understanding. E quindi influenza il nostro, la nostra attitudine, il nostro atteggiamento e poi anche la nostra comprensione. Mm. For instance, we might have an insight at that at a level of the of this intuition of the interconnectedness of things. Quindi potremmo avere un insight, un'intuizione riguardo alla interconnettività delle cose, interconnessione. The heart's expression of that is love. Quindi l'espressione del cuore di questo è l'amore. Mm. And if it doesn't do that, it remains as a sterile insight. E quindi se questo non avviene, rimane un insight sterile. Mm. And this has to then, the attitude becomes also sterile unless it expresses itself through, for instance, the way we speak. E quindi l'atteggiamento diventa anche sterile se non si esprime, per esempio, attraverso come noi parliamo. Mm. The Buddha asks us to speak kindly, truthfully, and at a suitable time. Il Buddha ci dice di esprimerci gentilmente. At a suitable time. No, kindly, kindly, truthfully. In maniera veritiera e soprattutto in al momento giusto. Mm. And from right speech we move into right action. They're both very connected. E dalla retta parola passiamo alla retta azione. Sono molto interconnessi. And interestingly enough, he puts in right livelihood. E in maniera interessante lui ci mette dentro anche i retti mezzi di sussistenza. He could have left it as included in right action. Poteva anche lasciarlo come se fosse compreso nella retta azione. Mm. But he mentions it specifically because if you think about it, your livelihood has a direct effect upon your character and your life. Ma l'ha messo, come dire, separato perché se ci pensate la vostra, i vostri mezzi di sussistenza hanno un'influenza sul vostro carattere e sulla vostra vita. Mm. Your job has will develop certain qualities within you. Il vostro lavoro svilupperà determinate caratteristiche dentro di voi. So a teacher, for instance, never asks questions they can't answer. Un insegnante, per esempio, non farà mai delle domande a cui non può rispondere. And a policeman is always suspicious. Il poliziotto è sempre sospettoso. So we have to recognize that our livelihood has an effect on us. Quindi dobbiamo riconoscere che i nostri mezzi di sussistenza hanno un effetto su di noi. So here we have the fullness of the Buddha's system. Quindi abbiamo questa, la pienezza del sistema del Buddha. He asks us to begin to perceive these three characteristics of existence. Ci chiede di cominciare a percepire queste tre caratteristiche dell'esistenza. Mm. The Vipassana practice is a training. Quindi la pratica di Vipassana è un addestramento, un tirocinio. Mm. We could go as far as to say that it's not necessary to practice Vipassana to become fully liberated. Ma possiamo anche dire che non è necessario praticare la Vipassana per raggiungere la piena liberazione. If we were to establish this wakefulness in ordinary life. Se riuscissimo a stabilire questa consapevolezza nella nostra vita quotidiana. On the other hand, it's a very skillful practice. Però e questa è una pratica molto abile. Mm. And from that it changes the attitude. Quindi da qui si cambia l'atteggiamento. It affects the way we speak and what we do and our livelihood. influenza il modo di parlare, quello che facciamo e la nostra vita, il nostro lavoro, mesi di sussistenza. And this connects us directly into the world. E questo ci connette direttamente con il mondo. And one of the things that Buddhism in general in the West has had to do. Una cosa che il buddismo ha dovuto fare in Occidente. Something which until fairly recently it has not had to do. Una cosa che non aveva, cioè che fino a recentemente non aveva dovuto fare. Is to think about modern problems. Era quello di dover pensare a dei problemi moderni. Economic, ecological, and so on. Problemi economici, ecologici e così via. And it has developed a certain type of writing that we call engaged Buddhism. E questo ha creato una forma di di espressione letteraria, diciamo, che chiamiamo buddismo impegnato. Of whom people like Thich Nhat Hanh, Joan Macy, there are many people who are involved in that interface between Buddhism and modern society. E ci sono molti insegnanti, tra cui Thich Nhat Hanh e un altro nome che ha detto. Joan Macy. Che praticamente rappresentano questa interfaccia tra il buddismo e la società moderna. But we as meditators are also at that interface. Ma anche noi come meditanti siamo a livello di questa interfaccia. Mm. And therefore our meditational practice has a direct effect on the world. E quindi la nostra pratica meditativa ha un effetto diretto sul mondo. You can see this, you can understand this more in a negative sense. Questo è più facilmente comprensibile in senso negativo. If you tell your friends that you've come away for a meditation retreat. Quindi se dite ai vostri amici che siete andati ad un ritiro di meditazione. And the next day they find you drunk out on the street. E il giorno dopo vi vedono ubriaco per strada. And they say, oh, this is what meditation does. Allora dicono, ah, è questo che si fa la meditazione. So, unfortunately, once you enter the spiritual path, you need to take on that responsibility that whether you like it or not, you are become a teacher. You are become a teacher. Yeah. E quindi che vi piaccia o no, una volta che intraprendete questo sentiero spirituale avete quella responsabilità di essere diventati degli insegnanti, dei maestri. As an exemplar. Come un esempio per gli altri. No, I don't want to depress you. Ma non vi voglio deprimere. I don't want to stress you. Non vi voglio stressare. So, when we practice, as we will do this evening, we always end with metta. Quindi quando pratichiamo, così come faremo questa sera, finiremo sempre con la metta. Because this creates this attitude of re-engaging. Perché questo crea questo atteggiamento del mettersi in gioco, diciamo, del impegnarsi. Now, for some of you who are new to Buddhism, the information may have been too much. Per alcuni di voi che sono nuovi al buddismo, queste informazioni potrebbero essere state troppe. Don't be concerned about that. Non vi preoccupate, non ve ne preoccupate. There are thousands of books written on Buddhism. Migliaia di libri scritti sul buddismo. And very good ones too. Anche molto, alcuni molto buoni. So when we get intellectually involved like this, it's good to begin to ground us back just into the basic practice. Quindi quando entriamo, come dire, ci coinvolgiamo in maniera intellettuale, come abbiamo fatto adesso, è bene poi ritornare a stabilizzarsi nella pratica. Just to ground us. Sì, per radicarsi. The practice is extraordinarily simple. La pratica è straordinariamente semplice. But not easy. Ma non facile. It's simple because all the Buddha is asking us to do is to observe. È semplice perché tutto quello che il Buddha ci chiede di fare è osservare. And to feel and experience whatever draws our attention. E quindi sentire o esperire tutto ciò che attira la nostra attenzione. But we discover this is extraordinarily difficult. Ma noi scopriamo che questo è straordinariamente difficile. But keep saying that to yourself. When I used to get into some confusion, my teacher would say, "Your job is to be aware." Allora, continuate a dirlo a voi stessi. Io quando entravo in uno stato di confusione, il mio maestro mi diceva: ricordati che il tuo lavoro è essere consapevole. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. That through your devotion to the practice, che attraverso la vostra devozione alla pratica, you will liberate yourself from all suffering. Vi libererete da tutta la sofferenza. And attain the peace of Nibbana. E otterrete la pace del Nibbana. Sooner rather than later. Prima piuttosto che tardi, o piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu. You have to say sadhu or else I feel depressed. Dovete dire sadhu, altrimenti mi deprimo. When the Buddha gave talks, it says at the end of the scripture, and his monks were delighted. Nelle scritture si dice che quando il Buddha faceva i suoi discorsi, allora finisce sempre con e i monaci erano deliziati, anche se in italiano non rende molto. Contentissimi. But there were some talks which, when the Buddha ended, the monks were silent. Ma c'erano alcuni discorsi alla fine dei quali i monaci erano in silenzio. They didn't like it. non gli era piaciuto. Very good. So we can do some walking meditation. Quindi adesso facciamo una meditazione camminata.